fosse un'altra donna, può somigliare a te. Dimmi se una Madonna esiste più bella di te. Guardandomi intorno, cerco chi può eguagliare. La bocca che hai tu, gli occhioni che hai tu, che m'hanno fatto innamorare. Sempre la tua immagine avrò, chiusa nel mio cuore. Sempre io con te resterò, perché vivo del tuo amore. Dimmi se un'altra donna può somigliare a te. La bocca che hai tu, gli occhioni che hai tu, io non li scorderò mai più, non scorderò.